Fatti mistici nella vita del curato d'Ars. Silenzio di umiltà. San Paolo ha scritto: «Dirò ora delle visioni e rivelazioni del Signore, delle prove del mio apostolato, cioè dei segni soprannaturali, prodigi, miracoli». Anche noi, giunti a questo punto della vita del curato d'Ars, basandoci su pochi ma sicuri documenti, non tralasceremo di fare qualche accenno alle meraviglie più straordinarie delle quali fu da Dio favorito. San Paolo, prima di riferire i grandi fatti mistici della sua vita, quasi si scusa presso i fedeli di Corinto, certamente perché è sempre pericoloso esaltare se stessi, ma ha anche buone ragioni per non tacere, poiché ai suoi nemici che gli negano il mandato divino nella Chiesa oppone come prova i fatti mistici. A Don Vianney, nascosto nell'umile villaggio di Ars, senza la sollicitudo omnium ecclesiarum, sembrò cosa migliore offrire ai suoi nemici personali un rassegnato silenzio. Mentre dei suoi contrasti con l'inferno non ha mai fatto mistero, amò invece nascondere quanto faceva parte delle sue comunicazioni col cielo. Lo constatò per primo Don Monin, che ebbe l'incomparabile fortuna di vivere a lungo vicino a lui, e che così si esprime: «Il servo di Dio non parlava mai dei favori divini di cui era oggetto ed era evidentemente infastidito delle domande che gli rivolgevano su questo argomento. A tali domande non dava che risposte evasive, soffermandosi di preferenza su ammirabili fatti della vita dei santi, di cui conosceva anche i minimi particolari, o troncando il discorso con elevate espressioni d'amor di Dio. I segreti delle sue comunicazioni mistiche non li abbiamo quindi raccolti da lui, ma da alcuni testimoni. Qualche volta però si tradì senza accorgersene, cedendo ad una troppo viva emozione o lasciandosi sorprendere da domande insidiose. Così un giorno arriva alla provvidenza col volto infiammato e davanti a Caterina Lassagne si lascia sfuggire queste parole: «Che grazia, che felicità, che fatto straordinario!» «Ma dove?» chiede Caterina dopo un momento. «In chiesa, in chiesa!» E non poté dire di più. Le grandi cose che Dio compie nell'intimo dell'anima lasciano muti, stupefatti, producono un non so che di divino, di inesprimibile. Cosa aveva dunque visto il curato d'Ars in quel giorno? Forse quella processione di santi di cui parlò un giorno a Suor Caterina Lacan e della quale aveva conservato un vivo ricordo? Durante la celebrazione della messa, coloro che hanno avuto la fortuna di assistere alla sua messa hanno potuto constatare la trasfigurazione che si operava in tutta la sua persona durante la celebrazione. Di questo era conscio egli medesimo, tanto che giunse a raccomandare alle orfanelle della provvidenza di non guardare il sacerdote quando celebra. La fede aveva fatto di lui un angelo e l'amore un serafino. Queste qualità si manifestavano in modo straordinario quando era all'altare, illuminando i suoi occhi e dando al suo viso un'espressione mirabile. Andrea Trevi ci dice di avere osservato che durante la messa il suo contegno raccolto aveva tutte le apparenze dell'estasi. Si era portati istintivamente a guardare se mai i suoi piedi non si alzassero da terra. Del resto il santo medesimo confessò che qualche volta le specie eucaristiche erano state per lui il solo nutrimento. «Avevo fame durante la messa», disse un giorno a Caterina, «ma quando mi sono comunicato ho detto al Signore: nutrite il corpo e l'anima, e la mia fame scomparve. Penso che verrà tempo», dice un prete, «in cui il curato d'Ars non si ciberà d'altro che dell'Eucaristia». Godette anche di visioni durante la messa? Ebbe il privilegio di contemplare l'umanità di nostro Signore? Don Toccanie ci dice che era opinione generale che egli godesse della presenza visibile del Salvatore nell'Eucaristia. «Dopo la consacrazione», aveva detto un giorno il santo, «quando tengo il Signore tra le mani io dimentico tutto». Se queste parole sono oscure, ne abbiamo altre che ci sembrano più esplicite. Durante la messa, quando si prega il Signore per i poveri peccatori, egli manda ad essi raggi di luce perché scoprano le proprie miserie e si convertano. A persone che lo avevano interpellato al mattino, egli consigliò qualche volta di attendere fin dopo la messa, come se aspettasse durante quella le comunicazioni divine. ad una giovane di Rimdeger, futura suor Maria Gabriella della Visitazione di Montluel, che era dubbiosa sulla sua vocazione allo stato religioso, un giorno, incontrandola dopo la messa, diceva con volto trasfigurato: «Figlia mia, quanto siete fortunata! Il Signore vi ha scelto per sua sposa». Un altro giorno, dopo il catechismo, mentre prendeva il suo frugale pasto appoggiato ad un armadio che gli serviva da tavola, non accorgendosi che era presente Gianna Maria Scianai, venuta nella cucina prima di lui, usciva in questa espressione: «Insomma, è da domenica che non vedo più il buon Dio». Sussultò quando Gianna Maria, che aveva tutto inteso, gli domandò: «E prima di domenica, dunque, lo vedevate?» Il santo, nel turbamento di essersi svelato, non rispose nulla. Verso il 1850, durante un catechismo delle 11, diceva: «Noi siamo così terreni che la nostra fede ci mostra le cose soprannaturali come se fossero lontane 300 leghe e come se Dio fosse al di là dei mari. Se avessimo una fede più viva, lo vedremmo certamente nell'Eucaristia. Ci sono dei preti che lo contemplano ogni giorno celebrando la messa». Ma se Don Vianney vedeva Dio, in che modo avveniva questa visione? Pensiamo non ci sia stata apparizione esteriore, forse era invece solamente la parte superiore dell'anima che percepiva l'ineffabile e l'invisibile, come lascia comprendere egli medesimo in una espressione sfuggitagli in un momento di intima confidenza con Don Tailad. Riandando i primi anni di apostolato, che egli chiamava gli anni delle grazie straordinarie, diceva: «All'altare avevo grandi consolazioni, vedevo il Dio». Voi vedevate il Dio? Oh, non in modo sensibile, ma che grazia, che grazia! Queste parole significano qualche cosa di più dell'alto grado di contemplazione al quale era stato elevato da grazia di predilezione, qualche cosa di più anche di quell'unione mistica per mezzo della quale Dio mette l'anima a parte della sua vita e nella quale l'anima è beata in seno a Lui, rallegrata dal sentimento delizioso della sua intima presenza. Non era però ancora l'estasi corporale, nella quale, come dice San Tommaso, la contemplazione priva l'anima dell'uso dei sensi. Ma non vi è alcuna testimonianza contemporanea per la quale sia lecito affermare che Don Vianney abbia avuto vere estasi durante la celebrazione del Santo Sacrificio. La sua messa non fu mai più lunga del tempo necessario, piuttosto è lecito affermare che di tale grazie fu favorito in altre circostanze. Nella Settimana Santa del 1849 o del 1850 era venuta a confessarsi da lui Suor Maria Francesca del Terzo Ordine Francescano di Saint-Sorlin, che finita l'accusa gli domandò: «Padre, cosa vuole Dio da me?» Dietro la grata, ci dice la suora, risuonò una voce debole e dolce: «Ah, figlia mia!» Ed il santo continuò come parlando fra sé per circa 5 minuti, non so in che lingua, senza che io comprendessi nulla. Ma contentai di rimirarlo in volto piena di stupore, persuasa che fosse fuori di sé e che vedesse il Dio. Ma poi, ritenendomi indegna di fermarmi alla presenza di un santo così grande, mi allontanai tutta sconvolta. Nel marzo 1852, verso 1:30 di notte, Don Vianney chiamava per la prima volta al suo confessionale Suor Clotilde, giovane religiosa della Congregazione di Gesù Bambino. La suora, appena il santo ebbe aperto lo sportello del confessionale, lo vide circondato di luce. Eppure, nella cappella di San Giovanni Battista non vi era che una piccola candela dal lume fioco che non giungeva fino al santo. Una luce sottile, ultraterrena, avvolgeva completamente Don Vianney. Non senza commozione, la religiosa fece l'esame delle sue colpe e, quando ebbe finito, disse: «Padre mio, confessatevi», mormorò il santo, sempre avvolto nella luce misteriosa. Docilmente la povera suora fece l'accusa delle sue mancanze, poi aggiunse: «Padre mio, confessatevi, ma non ho più nulla da dire». Seguì un prolungato silenzio. Il santo, uscito dalla sua immobilità, fece questa domanda: «E le vostre penitenze le avete sempre fatto bene?» Bastò questa parola perché nella mente della suora si risvegliasse il ricordo di penitenze negligentemente compiute. Se ne confessò umilmente. Quando, dopo un'ora, si ritirò dal confessionale con l'assoluzione, il santo era ritornato nel suo aspetto ordinario. Nel 1849 la giovane Maria Roch di Paris-Montrouge, tormentata da penose angustie di spirito, pensò di ricorrere ai lumi di Don Vianney, persuasa che solo la sua chiaroveggenza avrebbe potuto aiutarla. Riuscì ad avvicinarsi al confessionale dopo una lunga attesa. Nella semioscurità poté scorgere il servo di Dio che le appariva trasfigurato, con in viso due raggi infuocati che con l'intensità dello splendore velavano i suoi lineamenti. Ma non poteva essere un'allucinazione? È da escludersi, perché la giovane era perfettamente padrona di sé ed i raggi del sole non potevano giungere fino a quel remoto angolo. Come affascinata da quella fiamma, la fissa per 8 o 10 minuti. Poi, mancandole il coraggio di confessarsi, lascia la cappella di San Giovanni Battista. Ma il santo aveva letto nel suo cuore, ed il giorno seguente, passandole vicino dopo il catechismo, senza che ella lo avesse interrogato, le disse: «State tranquilla, figlia mia, tutto andrà bene». Solo lui ci avrebbe potuto dire le meraviglie che contemplava in quei momenti, ma egli invece ha taciuto. Fortunatamente, in 2 o 3 casi, vi furono altre anime che assistettero alle sue visioni e che ne hanno fatto fede. In questo modo abbiamo potuto avere i particolari precisi e circostanziati almeno di una apparizione. Mi presentai all'1 del pomeriggio. Il curato si trovava solo nella sua camera. Ricevuta da Caterina Lassagne, che mi introdusse nella canonica, stavo per salire le scale che conducono alla sua camera, quando sentii parlare. Pensai che ci fosse qualcuno con lui. Proseguii ugualmente con precauzione. Fermatami ad ascoltare, intesi una voce dolce che gli chiedeva: «Cosa avete da domandare?» «Mia buona madre, vi domando la conversione dei peccatori, la consolazione degli afflitti, il sollievo dei malati, soprattutto di una persona che soffre da molto tempo e che domanda la guarigione o la morte». Udii anche la risposta: «Guarirà, ma più tardi». A queste parole entrai di improvviso nella camera, convinta che si parlasse di me, che soffrivo di cancro. Con sorpresa vidi in piedi, davanti al camino, una signora di media statura che indossava una veste di meraviglioso candore ingemmata di rose d'oro. Indossava scarpe come la neve e nelle sue dita brillavano splendidi diamanti. Aveva la fronte coronata di stelle, splendenti come il sole. Ne fui abbagliata. Quando potei contemplare di nuovo la visione, la vidi sorridermi dolcemente. Con coraggio le dissi: «Mia buona madre, conducetemi con voi in cielo». «Più tardi». «Adesso, madre mia, voi sarete sempre la mia figlia ed io sarò sempre la vostra madre». E pronunciate queste parole, disparve. Rimasi un momento perplessa, stupita del favore che mi era stato concesso. Pensavo che dopo aver visto cose tanto belle avrei dovuto dimostrare con la mia vita la mia riconoscenza. Rientrata in me stessa, vidi Don Vianney in piedi davanti alla sua tavola con le mani giunte, il viso splendente e lo sguardo immobile. Tremai al pensiero che fosse morto. Mi avvicinai a lui e lo scossi tirandolo per la veste. «Mio Dio, chi siete?» «Padre, sono io». Queste parole lo riportarono in sé. «Dove eravate, padre? Che cosa avete visto?» «Ho visto una signora». «Anch'io», risposi. «E chi era?» «Se ne parlate», aggiunse in tono severo, «non metterete più piede in questo luogo». «Padre, ho pensato che fosse la Madonna». «Sì, non vi siete ingannata. L'avete veduta anche voi?» «L'ho vista e le ho parlato. Ma voi, ditemi, in che stato eravate quando vi credevo morto?» «Oh, ero contento di vedere mia madre». «Padre, fu per merito vostro se l'ho vista anch'io. Quando ritornerà, consacratemi a lei, perché lei mi consacri al suo divin figlio». Me lo promise tosto e aggiunse: «Voi guarirete». «Ma quando, padre?» «Un po' più tardi, non domandate di più». Poi, con tono ancora più dolce, soggiunse: «Con la Santa Vergine e Santa Filomena ci intendiamo molto bene». Forse il santo alludeva ancora a questa scena prodigiosa quando un giorno diceva alla baronessa di Belvey venuta ad Ars: «Se si conoscesse ciò che è accaduto in questo luogo, non si oserebbe più mettervi piede». In questo racconto non dimentichiamo 2 particolari importanti. Don Vianney parla della Santa Vergine e di Santa Filomena come se fosse abituato alle loro visite ed accetta di consacrare alla Santa Vergine Stefanina Durier, già facendo assegnamento con sicurezza su nuove visite della Regina del Cielo. Ma quando Stefanina vuole sapere qualche cosa di più, egli taglia corto con le domande indiscrete. Né si mostrò più loquace con Don Toccanier, che rimase accanto a lui per 6 anni. «Si afferma che avete delle visioni», gli disse questi un giorno. «Sì, una volta ho visto al mio capezzale qualcuno vestito di bianco che mi parlava con amabilità, come un confessore». Marianna Renard, che abitava con sua madre vicino alla canonica, ci assicura che Don Vianney ebbe visione anche nei primi anni della sua vita pastorale ad Ars. All'inizio del pellegrinaggio, cioè nel 1828, venne ad Ars una persona che voleva confessarsi dal servo di Dio. Entrata nella chiesa di buon mattino, si diresse alla sagrestia, la cui porta era rimasta semiaperta, e vide una signora vestita di bianco che parlava col santo. Si fermò sorpresa, non osando entrare, finché Don Vianney non venne a chiamarla. «Perché non siete entrata subito?» «Perché vi intrattenevate con una signora?» Il servo di Dio non rispose. Quando quella donna entrò in sagrestia, la signora era già scomparsa. Non avendo visto alcuno uscire, si convinse che il curato avesse avuto un'apparizione della Santa Vergine. Francesco Bourdin, che come abbiamo detto fu convertito da Don Vianney, dopo 7 confessioni consecutive doveva ben avere la coscienza pura. Ma la mattina del giorno 8, mentre si preparava a comunicarsi, fu turbato dal dubbio di non aver ricevuto l'assoluzione perché non se ne ricordava bene. E se non era stato assolto, poteva ritenersi in grazia di Dio? Invece di comunicarsi, si mise nella fila dei penitenti e con imperturbabile pazienza attese il suo turno fino alla sera. Quando il penitente che lo precedeva ebbe lasciato il confessionale della sagrestia, Francesco si inginocchiò. Che faceva Don Vianney? Non era più seduto al suo posto, ma voltate le spalle alla porta parlava con una signora un po' più alta di lui, vestita di azzurro pallido e splendente di una bellezza meravigliosa. Il curato d'Ars non si era accorto del penitente che era entrato, ma la signora gli aveva rivolto uno sguardo benevolo. Il misterioso colloquio durò circa 30 minuti, senza che si udisse alcuna parola. Frattanto, Francesco, che rimaneva inginocchiato col capo nascosto fra le mani, aveva l'impressione che gli venisse tolto dal cuore un peso immenso. Improvvisamente, Don Vianney prese il penitente per un braccio. Questi, alzatosi, cercò invano la visione. Era scomparsa senza che si fosse aperta la porta. Il santo allora, invece di sedersi per ascoltare la confessione, congedò il penitente con queste parole: «Andate in pace, amico mio, voi siete certamente in grazia di Dio». Altri racconti simili erano divenuti di dominio pubblico ad Ars e fra i pellegrini, dando la persuasione che il curato aveva delle visioni soprattutto della Regina del Cielo. Fin qui abbiamo visto come egli abbia fatto allusione alle visite della Santa Vergine. In altre occasioni parlò anche delle apparizioni di Santa Filomena. Nel maggio 1859, in un colloquio familiare con la baronessa di Belleville, nel modesto parlatorio che era stato costruito davanti alla casa, il santo, rievocando passati avvenimenti, disse: «Desideravo conoscere la volontà di Dio circa la nuova chiesa. Ero incerto se dovevo sacrificare l'opera delle missioni parrocchiali per impiegare ogni risorsa in questa costruzione. Mi rivolsi a Santa Filomena, che mi apparve bella e splendente in una nube bianca. Alludendo all'opera delle missioni, mi disse: "Non vi è nulla di più prezioso della salvezza delle anime". La baronessa di Belleville aggiunge che il curato d'Ars, mentre parlava, rimaneva in piedi, con gli occhi volti al cielo, estasiato a quel ricordo che sembrava ancora dominarlo. Le persone che lo circondavano erano già persuase che dormisse molto poco, ed egli stesso aveva confermato questa convinzione quando aveva parlato delle apparizioni del demonio. Rimaneva il dubbio se, quasi a compenso di quelle sgradite sorprese, durante la notte avesse anche altre visite, ma non si sapeva in che modo strappargliene il segreto. Su questo punto non ottenne molte spiegazioni neppure Don Toccanier. il 22 novembre 1856, con apparente indifferenza, osò chiedergli: «Signor curato, voi pregate anche di notte?» «Sì, amico mio, quando mi sveglio. Ora sono vecchio e non mi rimane molto da vivere. Debbo approfittare di tutti i momenti.» «Voi vi coricate sul pavimento e non dormite molto?» «Oh, non sempre sul pavimento.» E si fermò in un imbarazzato silenzio, ritenendo di avere parlato troppo. Ruppe il silenzio ancora Don Toccanier. «Signor curato, per tutte queste missioni che fondate, Dio dimostra chiaramente che vi vuole qui.» «Oh, amico mio, c'è ben altra cosa.» E si chiusero le confidenze, perché Don Vianney abilmente cambiò discorso. Un seminarista morto a Notre-Dame di Aghibel vide una notte nel cielo d'Ars una luce misteriosa. Non era forse un riflesso delle visioni consolanti di Don Vianney? Anche il giovane Don Tissot, futuro padre Maria Bartolomeo, che passava le sue vacanze presso il maestro Pertinan, una volta, verso la mezzanotte, stando appoggiato ad una finestra del primo piano, vide una grande luce sopra la canonica e conchiuse che là avveniva qualche cosa di straordinario. Comunicazioni con l'aldilà. Altri fatti, che non sono più semplici visioni ma vere rivelazioni, sembrano autorizzarci a ritenere che Don Vianney ebbe da Dio anche il singolare privilegio di penetrare col suo sguardo oltre i veli che nascondono la vita d'oltretomba. «È mia convinzione», ha detto la contessa di Garez, «che Don Vianney avesse comunicazione dirette con le anime separate e nulla gli fosse nascosto di ciò che avveniva in purgatorio. Quando mio figlio Giovanni morì per la Francia nella guerra di Crimea, il nostro santo curato subito mi tranquillizzò sulla sua salvezza e dopo pochi giorni, facendo ancora allusione a lui in uno dei suoi catechismi, si lasciò sfuggire queste parole: «È come questo povero figliolo, è in purgatorio, ma per poco tempo». Ci rimaneva tuttavia ancora un po' di dubbio, perché non si sapeva se il nostro Giovanni in punto di morte avesse avuto l'assistenza del sacerdote. Ed ecco che dopo 6 mesi un ufficiale ci faceva appunto sapere che nostro figlio aveva ricevuto i sacramenti dei moribondi ed aveva fatto una morte edificante. Mio marito si affrettò a portarne la notizia al curato, che senza meravigliarsi si accontentò di rispondere: «Mi fa piacere questa notizia, perché consolerà sua madre, ma non cambia nulla di quello che già credevo». Una giovane religiosa della Saône-et-Loire, dopo avergli chiesto consiglio sulla sua vocazione, volle sapere da lui se suo padre, morto improvvisamente, si era salvato, e ricevette la seguente risposta: «Sì, figlia mia, ma è molto in basso, pregate tanto per lui». Circa il 1849 venne a confessarsi da lui la signora Meunier di Perret, presso Rouen, e prima ancora che ella avesse incominciato la sua confessione, il santo le faceva questo ammonimento: «Figlia mia, vostro marito lavora di domenica, ditegli a nome mio che lasci questa cattiva abitudine e che verrà un giorno nel quale sarà contento di avermi dato ascolto». Ed aggiunse: «Non ci si deve scambiare la promessa di venire dopo morte a riferire quello che avviene nell'altro mondo, perché Dio non ne concede il permesso che a pochissime anime». Precisamente la signora Meunier e suo marito si erano scambiati questa promessa. Quell'uomo fu ossequiente alla parola del curato d'Ars e non lavorò più in giorno di festa. L'anno dopo, la domenica della Santissima Trinità, ritornando in carrozza dai Vespri, fu gettato a terra dal cavallo che si era spaventato e morì senza aver ripresa la conoscenza e senza poter ricevere i sacramenti. La signora Meunier, 7 settimane dopo questa disgrazia, inquieta sulla morte eterna del marito, veniva ad esporre i suoi dubbi a Don Vianney, ed il santo, appena ebbe aperto lo sportello del confessionale, le disse: «Figlia mia, voi pensate che persone della vostra famiglia si siano dannate, ma io non lo credo. Padre mio, la persona che mi interessa dovrà stare molto in purgatorio? Aspettate». Dette queste parole, si raccolse nel confessionale e per 5 minuti lo intese parlare da solo, o come se fosse in comunicazione con un essere invisibile. Poi, avvicinandosi alla grata, esclamò sospirando: «Povera madre, che disgrazia!» La signora Meunier non gli aveva detto ancora che aveva 5 figli e che la morte di suo marito l'aveva lasciata quasi senza risorse. Gli occorrono poche messe per arrivare al cielo. Vi giungerà fra 3 anni e lo saprete da uno dei vostri figli. 3 anni più tardi, uno dei suoi figli ancora in tenera età moriva presso una zia lontano da Perrè. Nella notte del decesso la madre lo vide in sogno salire al cielo insieme con suo padre, ma ritenendolo in buona salute dapprima non fece caso al sogno. Solo quando ricevette la notizia della morte ricordò la predizione di Don Vianney. Qualche volta vennero ad Ars persone desolate per la morte di parenti peccatori che essi temevano dannati per l'eternità. Il misterioso sguardo di Don Vianney andava oltre le loro desolazioni. Una pia signora, ci dice la contessa di Belvey senza farne il nome, aveva uno sposo di nessuna fede religiosa e pregava per la sua conversione. Sempre agitata al pensiero che una avanzata malattia di cuore, della quale soffriva, lo portasse alla tomba improvvisamente. Questa signora ornava con delicata attenzione una statua della Madonna che teneva in casa ed era suo marito a cogliere i fiori, ben sapendo a quale uso avrebbero servito. La morte avvenne quasi improvvisa, senza sacramenti e senza che l'infelice avesse potuto rendersi conto del suo stato. E questo dopo tante preghiere. Il dolore della sposa fu sì vivo che si ammalò e sembrò impazzire. Quando si riprese, fece il viaggio dal suo lontano paese per recarsi a cercare un po' di consolazione dal curato d'Ars. Questi, al primo incontro, le disse: «Signora, non vi ricordate dei mazzi di fiori che offrivate alla Santa Vergine?» Queste parole, che le furono causa dapprima di meraviglia, la rassicurarono, formarono poi la sua consolazione e le resero la salute del corpo e la tranquillità dello spirito. Un giorno del 1855 o del 1856 faceva visita ad Ars Don Gayamet, che fu per lunghi anni superiore all'Immacolata Concezione di Saint-Dizier nell'Alta Marna. Una povera donna in lutto, che durante il viaggio era sempre stata seduta vicino a lui, ascoltando in silenzio i discorsi sulle meraviglie di Ars e del suo curato, gli rivolse per la prima volta la parola quando giunsero alla stazione di Villefranche. «Reverendo, mi permettete di seguirvi fino ad Ars? Vengo là come andrei in qualsiasi altro luogo. Viaggio perché ho bisogno di distrarmi». Don Guillamet fu presto d'accordo ed accettò anche di farle da guida fino al villaggio. Preso posto nella medesima vettura, continuarono il viaggio fino ad Ars, ove giunsero mentre il curato finiva il catechismo delle 11. Stavano fra la chiesa e la canonica, quando videro Don Vianney, che ancora indossava la cotta, avanzarsi fra la folla e dirigersi verso questa povera donna che in quel momento, per seguire l'esempio dei pellegrini, si era inginocchiata. Il santo, chinatosi al suo orecchio, disse: «Egli è salvo». La sconosciuta ebbe un sussulto e Don Vianney ripeté: «Egli è salvo». La risposta a queste parole fu un gesto di incredulità da parte della donna straniera. Allora il santo, scandendo ogni parola, aggiunse: «Vi dico che egli è salvo, si trova in purgatorio e si deve pregare per lui. Tra il parapetto del ponte e l'acqua ha avuto il tempo di fare un atto di contrizione. È la Santa Vergine che gli ottenne questa grazia. Ricordate le devozioni del mese di maggio nella vostra camera? Qualche volta il vostro sposo, quantunque irreligioso, si è unito alla vostra orazione e questo gli ha meritato il perdono». Don Guillamet non comprese nulla di queste parole e solo il giorno seguente seppe della meravigliosa luce che aveva illuminato il servo di Dio. La sconosciuta trascorse nella solitudine e nella preghiera le ore che seguirono il suo incontro con Don Vianney. La sua fisionomia si era come trasformata, la sua anima aveva ritrovato la pace. Prima di partire, come era naturale, ringraziò Don Guillamet, a cui disse: «I medici mi consigliarono di viaggiare per distrarmi dall'atroce disperazione che seguì nel mio animo alla tragica morte di mio marito, che era incredulo e che io speravo di poter condurre alla fede. Disgraziatamente egli annegò con un suicidio volontario. Non potevo rassegnarmi al pensiero che fosse dannato e che non lo potessi più vedere. Ebbene, voi avete sentito la parola di conforto che mi è stata detta: egli è salvo, quindi lo rivedrò in cielo. Signore, qui ho trovato la guarigione. È ricordato un caso solo nel quale sembra che Don Vianney abbia tremato al pensiero della dannazione di qualche defunto. Però è ovvio che se Don Vianney ha fatto in altre occasioni simili amare confidenze, era interesse dei superstiti custodire gelosamente il doloroso segreto. Il signor Paget dice che una donna venuta da Parigi o dai dintorni chiese al curato ove fosse l'anima di un suo parente morto da poco tempo e ricevette questa laconica risposta, alla quale il santo non aggiunse parola di commento. Non ha voluto confessarsi prima di morire. Era la verità. Il morente aveva rifiutato il sacerdote in punto di morte e questo particolare non poteva essere noto a Don Vianney da fonte umana. Più volte invece ha detto parole di vera consolazione a persone in lutto alle quali assicurava che l'anima rapita alla terra godeva già dell'eterna beatitudine. Così consolava una giovane che aveva perduto la madre da poco tempo con queste parole: «Quanto si è felici di avere dei parenti in cielo! Vostra madre fu molto paziente nella sua malattia. Dio l'ha ricevuta ed ella prega ora per voi». La giovane Barr, nostra parente, dice la signora di Gretz, aveva perduto sua madre, la cui vita era stata segnata da innumerevoli prove, e venne ad Ars per vedere Don Vianney. Appena il santo la vide sulla porta della sagrestia, le rivolse la parola: «Figlia mia, avete dunque perduto vostra madre? È in cielo. Lo spero, signor curato. Sì, sì, è in cielo». E quando la giovane Barr gli presentò il rosario di sua madre perché lo benedicesse, egli lo prese e lo baciò con rispetto come una reliquia. La signorina di Mourinat moriva in seguito a lunga e dolorosa malattia dopo una vita consacrata all'esercizio di opere buone. Io la raccomandai alle preghiere di Don Vianney, ma egli mi rispose che era inutile pregare per lei. Ed anche quando la cognata della defunta gli chiese di celebrare messe per il riposo della sua anima, oppose un rifiuto, dicendo: «Non ne ha bisogno». Altri favori soprannaturali. Nella sua vita troviamo anche altri favori soprannaturali che sono la caratteristica dei più grandi mistici. Ebbe il dono delle lacrime, che secondo Santa Teresa vengono da un sentimento di ineffabile tenerezza per Dio o dal martirio interiore in cui l'anima si consuma al pensiero delle offese che vengono fatte alla divinità. «Queste lacrime», scrisse Lacordaire, «Dio le causa e l'estasi le fa versare». Don Vianney non parlava mai del peccato e del peccatore senza versare lacrime abbondanti. Quando faceva la Via Crucis, la sua parola si estingueva, rotta dai singhiozzi, e spesso, anche quando distribuiva la Santa Comunione, le lacrime cadevano sulla pianeta che indossava. Negli ultimi anni di vita non poteva mai ritornare agli argomenti preferiti: l'Eucarestia, la bontà e l'amore di Dio, le gioie del cielo, senza essere interrotto dalle lacrime. E versava ancora lacrime davanti al più umile spettacolo della natura, se esso alla sua anima sensibilissima parlava della bontà di Dio e del cuore indurito dei peccatori. L'altro giorno, disse in un'omelia dei primi anni, ritornando da Savigny, intesi il canto degli uccelli e sentii venirmi le lacrime agli occhi. «Povere bestioline! Il Signore vi ha create per cantare e voi cantate, mentre l'uomo, che è stato creato per amare Dio, non lo ama». Ma nella storia di molti santi vi è un altro fatto meraviglioso: l'estasi ascensionale o levitazione. Due volte almeno Ars fu testimonio di questo prodigio. Il lunedì di Pentecoste, 28 maggio 1849, una fanciulla che si fece poi suora di San Giuseppe, Annetta Chrétien di Bessanet Ron, era venuta per consultare Don Vianney sulla sua vocazione. Gli parlò in sagrestia. A una sua domanda lo vide congiungere le mani, alzare gli occhi al cielo e improvvisamente levarsi a quasi un piede di altezza. Rimase così un quarto d'ora. Quando tornò coi piedi a terra, le fece una predizione di una meravigliosa chiarezza e che si realizzò poi in tutto e per tutto. Al tempo del processo di canonizzazione, il canonico Giovanni Gardet, cappellano del Carmelo di Chalon-sur-Saône, riportò sotto giuramento questa testimonianza. Trovandomi un giorno ad Ars con mio fratello, parroco di Saint-Vincent di Chalon-sur-Saône, alla preghiera della sera mi collocai con lui davanti al pulpito e quando Don Vianney giunse all'atto di carità, mio fratello, che ha la vista molto buona, lo contemplò elevarsi in modo che i suoi piedi stavano sopra l'orlo del pulpito, col viso trasfigurato e il capo circonfuso di luce. Mio fratello diede uno sguardo alla folla, ma nulla gli indicò che ci fosse emozione presso alcuno. In quel momento non disse nulla, ma appena fuori di chiesa non seppe mantenere il segreto su ciò a cui aveva assistito e lo raccontò a tutti con entusiasmo. Così si erano contemplati simultaneamente due fenomeni, la levitazione ed anche l'aureola, anticipato riflesso della vita dei beati che solo qualche volta risplende sui santi della terra. Oseremo ora penetrare più oltre nei misteri di Dio per domandare se Don Vianney arrivò anche gradatamente ed attraverso numerose purificazioni a quell'unione calma e duratura che si chiama unione trasformante e che sembra l'ultimo grado dell'unione mistica e la preparazione immediata alla beatifica visione? L'estasi è unione transitoria dell'anima con Dio, è il fidanzamento spirituale. Ma oltre questa vi è l'unione trasformante, intima, serena ed indissolubile, che nel linguaggio della mistica si conosce col nome di matrimonio spirituale. È l'ultimo grado nel quale l'unione con Dio è così profonda che l'anima si trova trasformata, dimentica di sé, per non pensare che alla gloria di Dio. È Dio che si impadronisce dell'anima e delle sue facoltà. Lo studio della vita interiore di Don Vianney ci ha già dimostrato che la sua esistenza era diventata una continua preghiera, cioè un'ininterrotta comunicazione con Dio. «Come è bella», esclama in uno dei suoi catechismi, «come è bella l'unione dell'anima con nostro Signore. La vita interiore è un bagno d'amore nel quale l'anima si inebria. Dio tiene l'anima come una madre stringe il capo del suo bambino per coprirlo di carezze e di baci. Nostro Signore ha fame di quest'anima». Queste parole sfuggitegli spontaneamente non sono la descrizione migliore dei segreti della sua anima abituata alle operazioni divine dell'unione trasformante? «Vorrei perdermi», aveva detto un giorno, «per non ritrovarmi se non in Dio». Ed ecco che il suo caro desiderio era stato realizzato. La sapienza eterna aveva sposato la sua anima. Ma Dio non lascia qualche pegno di questo matrimonio mistico? La risposta affermativa nel caso di Don Vianney sembra avere come appoggio un fatto reale, narrato in una lettera che una buona cristiana di Villefranche-sur-Saône ha indirizzato ad uno dei primi successori del santo. L'accento di questa lettera dimostra sincerità e perfetta buona fede. «Signor parroco, mi faccio un dovere di informarvi che trovandomi ad Ars il 2 luglio 1856 e non avendo potuto indirizzarmi al santo in confessione, data la moltitudine dei pellegrini che stavano attorno al suo confessionale, decisi di portarmi ai suoi piedi per implorare la sua benedizione. Giunta davanti a questa amabile creatura, tentai di afferrarne la mano per baciarla rispettosamente, ma egli la ritirò dicendomi con tono grave e benigno nel medesimo tempo: «Oh, non prendetemi il mio anello!» In quel momento io vidi quello che non avevo visto fino allora, e cioè che vi era al quarto dito della sua mano sinistra un anello d'oro di lucentezza straordinaria. Aveva quindi ricevuto, poiché ne era degno, l'insigne favore di cui erano stati favoriti molti altri santi. L'autrice della lettera ha visto un anello che non fu scorto da nessun altro, ma del quale Don Vianney parla esplicitamente. L'illusione pare dunque impossibile. Così il curato d'Ars, onorato di questo spirituale matrimonio, entra a far parte della schiera dei grandi mistici, con San Giovanni Elemosiniere, San Lorenzo Giustiniani, il beato Enrico Susone, Santa Caterina d'Alessandria, Santa Caterina da Siena, Santa Coletta di Corbia, Santa Teresa E forse pensava appunto a queste ineffabili gioie gustate nell'intimità divina, quando, parlando con Don Toccanier, che gli chiedeva con insistenza circa i suoi rapporti con Dio e le consolazioni che ne riportava, si lasciava sfuggire questa confidenza pur tanto vaga. «Amico mio, vi è ben altro».